per esplorarne i sensi, legga in volto da sé e destinga il mio trono e la mia scusa. La schiava assisa e la regina in piedi. Signore di Trebisonda, l'erede a voi. Volti in oltrone, men noto ciò che pretendere. Asteria parli, e da quegli occhi, e da quel labbro intenda ciò che deve sperare la grande rede. Folle da un traditor che spera fede. Al maggior dei monarchi inchina asteria il suo valer, e umile estendere ad estero al vincitor del mondo. Ciò che brama il mio amor, bella tu chiedi, tu sfuggirai da questo luogo al solito, te lo prometto, e impegno e con la mano. Fermati, o tamerlana, che quella mano prima è dovuta Irene. Quanto ardita è costei. Donna Rossini, tradire una regina, per poi stender la destra ad una schiava. Una schiava che ancora non si sa con qual cor venga sul trono. Donna, garristi assai, in te rispetto, sesso, beltane, e più direi il nome. Son reo, lo so, ma la discolpa è questa. Al figlio c'è un trono non minore del mio, si plaghi e regni. Se non stringe la mano del tamerlano, ritornerò a tuo piede. Fa che mi spiaccia, Asteria, e abbraccia